Vorrei però leggere assieme a lei alcune agenzie che riguardano il disegno di legge sviluppo, quello che dovrebbe rispondere, oltre che ai mutui per chi ha meno di 30.000 euro, anche a parte delle vostre richieste. Allora, ci dovrebbe essere un credito d'imposta per chi assume al sud. Le imprese che assumeranno lavoratori svantaggiati nel mezzogiorno potranno contare su un credito d'imposta, e questa sarebbe una novità non da poco. E poi, per quello che riguarda gli appalti di lavori pubblici senza bando di gara, salirebbe da 500.000 a 1 milione di euro la soglia per fare gli appalti senza il bando di gara. Di nuovo, credito d'imposta anche per chi fa ricerca in università e per le aziende che investono in ricerca nelle università, mi correggo. E poi i distretti turistico-alberghieri che godranno di burocrazia zero. Queste sono alcune delle cose che stanno trapelando da agenzia per quello che riguarda il disegno di legge sviluppo. Le avevo chiesto come si fa invece ad avvicinare anche la società, i giovani, ma non solo, a quelli che sono i temi della piccola industria, che ripeto è il 98% di Confindustria ed è la principale fonte di occupazione in questo paese. Guarda, dottor Belgioni, intanto se giovedì il governo varerà gli interventi, noi sicuramente lo accoglieremo con estremo interesse e attenzione, valuteremo i contenuti sia sul che cosa, ma anche il come e soprattutto il quando, perché quello che è il messaggio forte che deve passare è che qualunque possa essere il contributo in questo momento, quello che conta, tanto quello che serve lo sappiamo, e le modalità con le quali si arriva a un risultato e i tempi.